In un momento difficile come questo, anche tra Confindustria e sindacati, dobbiamo cercare di far prevalere quello che ci unisce e non quello che ci divide. Credo che davanti ai lavoratori che rischiano di perdere i posti di lavoro, agli imprenditori che hanno difficoltà, un atteggiamento di responsabilità, di serietà da parte di tutti, credo che sarebbe una risposta vera che noi possiamo dare a questo momento di crisi. Credo davvero che vadano fatti tutti i tentativi, ovviamente da parte di tutti, non possiamo farli solo noi, li deve fare anche la CGIL per cercare di capire, insomma, come possiamo affrontare questo momento difficile insieme.